L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata dell'Altro Pianeta, nella quale torniamo un po' come a inizio anno a parlare del tema dei sacchetti di plastica, ma lo faremo con una prospettiva un po' diversa e cogliendo l'occasione che ci ha offerto in settimana una conferenza che si è tenuta presso la sede di Bruxelles del Parlamento Europeo sulle bioplastiche, in cui tra l'altro è stato presentato un volume intitolato Bioplastics, a Case Study of Bioeconomy in Italy di Walter Ganapini, a cura del Kyoto Club, edito da Edizioni Ambiente, un volume che indaga sulle ricadute che può avere l'adozione di misure magari drastiche, ma che incentivano la produzione e l'utilizzo di prodotti biodegradabili da materie prime rinnovabili, come nel caso appunto del bando ai sacchetti di plastica in Italia. Con l'occasione è stata presentata anche una ricerca della Università Bocconi di Milano, che è stata realizzata a 2 anni dal bando agli shoppers, e quindi il primo ospite che vi presento è Francesco Bertolini, che è docente dell'Università Bocconi di Milano e presidente del Green Management Institute. Buonasera. Buonasera. Nel volume si parla tra l'altro di Novamont, che è un'azienda del settore della chimica verde che ha inventato il Mater B, e cioè una famiglia di bioplastiche perfettamente biodegradabili e compostabili. E questo della biodegradabilità e compostabilità è un elemento che vedrete sarà chiave nella discussione di oggi. Diamo quindi il buonasera e bentornata anche a Katia Bastioli, amministratore delegato di Novamont e presidente del Kyoto Club. Buonasera. Buonasera, buonasera. Quindi è evidente a questo punto il legame che c'è tra i nostri ospiti, ma cominciamo dalla ricerca, Bertolini. A quale conclusione siete giunti? Quali sono i risultati dell'indagine? Il primo risultato interessante è che dopo un anno dall'entrata della legge, cioè nel 2011, il consumo degli shop nel nostro paese è diminuito del 25%, e già questo di per sé è un grande risultato, perché significa che si è creata una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori nell'importanza di questo oggetto quotidiano, che è stato spesso sostituito da sacchetti riutilizzabili. Quindi già questo è un fattore molto importante. Gli altri aspetti importanti sono la riduzione di costi che c'è stata a seguito di questa dell'introduzione di questa normativa, e cioè con la riduzione del numero di sacchetti in circolazione si è ridotto anche il costo del conferimento in discarica di plastiche legate appunto agli shopper, e questo risparmio è stato quantificato in una cifra superiore ai 5 milioni di euro annuo, che comprende anche la riduzione delle emissioni di CO2 legate alla produzione di questo materiale, che sono diminuite del 29%. Quindi questi sono i primi due dati interessanti che emergono dalla ricerca. Poi ovviamente la ricerca ha colto come spunto gli shopper per allargare un po' la valutazione ad altre tipologie di applicazioni del Mater B, cioè di questa famiglia di bioplastiche. E cioè noi siamo andati a vedere che tipo di applicazioni oggi sono competitive sul mercato, e cioè il telo per la pacciamatura, che è quel telo che viene disteso sulle superfici delle nostre campagne, i sacchetti per la raccolta dell'organico, le posate nella ristorazione collettiva. Quindi tutte queste analisi hanno consentito di valutare anche l'impatto sulla potenziale nuova occupazione legata a queste applicazioni, e si è stimato che da qui al 2020, quindi di qui a pochi anni, potrebbe comportare un incremento occupazionale stimato intorno alle 3.000 unità. E teniamo conto che stiamo parlando di un settore, di un comparto industriale che rappresenta oggi lo 0,5% della produzione globale mondiale di plastiche. Professore, la fermo un attimo, facciamo intervenire Katia Bastioli, perché immagino che soprattutto su questi ultimi aspetti lei abbia scritto e approfondito i temi che poi appunto ha portato in Europa, no? Ecco, in realtà il libro cerca di mettere insieme tutti gli studi che sono stati prodotti in ambiti diversi, quindi dai posti di lavoro alla parte dello sviluppo nel campo della produzione chimica, delle integrazioni a monte, delle bioraffinerie integrate, anche dei posti di lavoro ovviamente, ma anche della parte dell'innovazione e della soluzione del problema del rifiuto organico, perché qui il concetto non è tanto quello di sviluppare nuovi prodotti, per questo è sicuramente molto importante, ma è solo la declinazione in una logica di sistema che ci permette di cambiare il modello di sviluppo. E diciamo che quello che nel libro viene messo insieme è proprio la dimostrazione plastica del fatto che già in Italia si è prodotto un caso di economia di sistema, in cui abbiamo, come diceva prima Francesco Bercottolini, abbiamo ridotto abbiamo preso un prodotto che è critico per l'ambiente, che viene ripensato su nuovi prodotti e che viene riutilizzato come mezzo per lanciare la raccolta differenziata dell'umido, che è un altro settore ancora più critico del discorso dello shopper, perché in realtà diciamo le quantità in gioco sono moltissime e quando mettiamo del rifiuto organico a discarica il danno che creiamo è enormemente superiore rispetto anche a quello di un sacchetto. E quindi un elemento importantissimo, perché da un problema si creano delle grandi opportunità. E l'altra opportunità importante è che quando si prende un sacchetto in mano, in realtà si crea una filiera integrata che può andare a ricostruire dei siti chimici che ormai sono deindustrializzati e spesso hanno problemi ambientali. Nel momento in cui si rilanciano delle nuove opportunità con delle filiere corte, integrate, rispettando la biodiversità locale, spingendo anche tutta la parte di diciamo sviluppo agricolo locale che può dare sostegno a queste filiere, mettiamo in pratica un'altra grande opportunità che è quella delle bioraffinerie integrate. Quindi in realtà lo shopper e la legge sullo shopper non hanno fatto altro che permettere, senza soldi pubblici, di attivare delle nuove filiere che hanno creato delle nuove partnership tra, faccio l'esempio importante della joint venture tra Universalis e Novamont a Porto Torres, ma anche nuovi investimenti esteri, per esempio come nel caso dell'acido succinico di DSM di Reverdia, che è una joint venture tra Rocket e DSM. A Porto Torres ci faccia l'esempio di come si svilupperà ad esempio questa catena. Lei parlava della biodiversità locale, quindi... Certo, il movimento è questo. In pratica noi stiamo già costruendo l'impianto della bioraffineria di Porto Torres. Avrà tre fasi, in realtà la prima fase e metà della seconda sono già in azione e gli impianti saranno pronti alla fine di quest'anno e si connettono con la filiera agricola. Quale filiera agricola? Una filiera agricola che utilizza terreni non coltivati, abbandonati perché economicamente non sostenibile coltivare in quei luoghi, sono non irrigue e utilizziamo delle colture pluriennali che hanno caratteristiche locali, perché stiamo guardando in questo momento in modo pesante al cardo, siamo al secondo anno di coltivazione, è una coltura povera, ma in quelle terre ci permette di utilizzare sia la parte seme da cui possiamo avere l'olio che alimenta l'impianto di Porto Torres, dal crushing possiamo ottenere il pannello proteico che serve agli animali. Tenga conto che in Sardegna si importa una grande quantità di prodotti per gli animali. La biomassa lignocellulosica, che è in grande quantità, può essere utilizzata per avere gli zuccheri di seconda generazione per altri tipi di produzioni di blocchetti che messi insieme ci permettono di produrre bioplastiche, ma anche biolubrificanti, ma anche additivi a basso impatto per le gomme, per esempio. E non solo, ma il cardo è una produzione, diciamo, è una pianta caratteristica della Sardegna, pensiamo al miele di cardo. Quindi diciamo intorno a questo tipo di coltura possono spingersi altri tipi di attività. E questa è l'esperienza che avete portato a Bruxelles. Diciamo tutto il sistema, cioè che certo. Cosa una legislazione può trainare nel caso della bioeconomia. Francesco Bertolini, torniamo sul tema degli shopper in discarica. Per quanto ne so, insomma, tra le ultime mosse del governo Monti c'è stato il decreto attuativo interministeriale Ambiente Sviluppo Economico approvato dalla Commissione Ambiente della Camera. Si sono stabilite le caratteristiche tecniche consentite per la realizzazione di questi bioshopper, che hanno escluso il ricorso ad additivi chimici di qualsiasi genere, ma insomma negli ultimi anni nelle raccolte dell'umido si sono utilizzati dei sacchetti bio che non erano abbastanza bio, che creano danni che voi avete quantificato. Sì, si è stimato in circa 26 milioni il costo che gli impianti di compostaggio devono sostenere per ripulire il materiale da questi residui plastici, cioè i cittadini utilizzano per la raccolta dell'umido sacchetti non compostabili che poi in realtà nel processo dell'impianto di compostaggio creano problemi e quindi creano un costo aggiuntivo che poi tutta la collettività deve sostenere. Un altro elemento secondo me molto importante e significativo nella logica di sistema di cui si parlava prima è appunto l'attivazione di questa filiera del compost. L'umido rappresenta tra il 30-40% del totale dei rifiuti che noi produciamo quotidianamente e c'è ancora nel nostro paese una grande fetta del territorio che, in cui la raccolta dell'umido non viene effettuata. Questo significa che in prospettiva, oltre che consentire il raggiungimento di target di raccolta differenziata previsti dall'Unione Europea, questo consentirebbe anche di creare nuova occupazione, di creare un nuovo materiale e di chiudere quel ciclo dal prodotto a un materiale che ritorna al terreno come nutriente, non come inquinante. Grazie a Francesco Bertolini, ricordo docente dell'Università Bocconi di Milano, presidente del Green Management Institute. Grazie anche a Katia Bastioli, amministratore delegato di Novamont. L'appuntamento è rinnovato per la prossima settimana alla stessa ora.